30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Tra le 10 e le 15 mila persone in entrambi gli schieramenti sono già morti nella guerra in Libia. Lo ha detto ieri Sherif Bassiouni, che in aprile ha guidato la missione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Tripoli e nelle roccaforti dei ribelli. Intanto l'IOM, l'Organizzazione Mondiale delle Migrazioni, che ha sede a Ginevra, ha indicato in quasi un milione il numero di lavoratori stranieri scappati dalla Libia dal 19 marzo ad oggi. Ancora buonasera, benvenuti a questo appuntamento con 30 minuti in cronaca. Dunque 19 marzo, inizio dei bombardamenti, ma la crisi libica è cominciata prima, tant'è che già a febbraio e nella prima parte di marzo i fuggiaschi, i lavoratori stranieri che a centinaia di migliaia, anzi oltre un milione nel corso di questi anni, hanno appunto trovato un lavoro in Libia, hanno cominciato a partire. Noi abbiamo immediatamente avvertito l'impatto di questa fuga, di questa pressione verso l'Egitto e verso la Tunisia, soprattutto quest'ultimo paese, perché poi di fatto è il ponte naturale di passaggio verso l'Europa. Ma esiste un lato B, un fronte sud, che è quello che spinge chi è in fuga in paesi che sono il Mali, il Niger, il Chad, il Sudan. Ecco, proprio di questo fronte parliamo questa sera e cominciamo a farlo con Habibatou Wane, che è un funzionario senegalese che ha studiato a Siena, pertanto parla la nostra lingua, ma che è soprattutto responsabile dell'Organizzazione Mondiale dei Migranti in Niger. Allora, la dottoressa Wane, abbiamo chiesto di raccontarci cosa accade sul fronte sud della fuga dalla Libia. Dall'inizio della crisi in Libia abbiamo ricevuto, più di 70.000 persone che sono entrate, che hanno sfuggito dalla Libia attraverso il Niger. Quindi sia il sud della frontiera sud Libia, Sabha, Gafron Sabha, via il North Niger, che come sa, tradizionalmente il Niger è un paese di transito. Quindi un transito prima della crisi, i migranti attraversavano il Niger per raggiungere la Libia e l'Europa. Il Niger come paese di transito. Ricordo solo una cosa, il Niger è un paese grande, 4 volte l'Italia come superficie, ha 10 milioni di abitanti e secondo gli indicatori delle Nazioni Unite dello Sviluppo Umano il Niger è al 167esimo posto su 169, insomma un paese povero. Cosa succede quando un paese povero viene investito da una massa di migranti di questo tipo? Appunto, le autorità non hanno le capacità di accogliere tutte queste persone che attraversano il loro paese, perché bisogna ricordare che quando vengono in Niger, quelli che sfuggono dalla Libia vengono nei camion, e poi per questo noi, l'IOM, dall'anno scorso avevamo un centro di transito che era appunto finanziato dalla cooperazione italiana, quindi che era in Dirkou. Dirkou si trova nel nord del Niger, verso la frontiera sud, è un punto di passaggio obbligatorio dai migranti che vogliono recarsi in Libia. Arrivano in Dirkou e lì, quando arrivano in Dirkou, marzo, febbraio, marzo, aprile, riceviamo almeno 2.000 persone per giorno. Ogni giorno, quindi dalla Libia arrivano almeno a Dirkou. La media era 2.000 persone. È arrivato il giorno in cui sono arrivati 2.500 persone al giorno. Cosa fanno le persone lì? Come vengono aiutate? Allora, quando arrivavano, quindi noi lì lavoriamo, diamo a quelle che hanno bisogno l'assistenza alimentare, diamo i primi, quelli che hanno bisogno di essere curati, gli diamo le cure necessarie, e quelli che sono più vulnerabili, le donne, i bambini, gli stranieri, quelli che sub-sahariani, quindi noi accogliamo questi più vulnerabili nel centro, perché la capacità del centro è di 250 persone a 300 persone al massimo. Quindi noi accogliamo, scegliamo quelli più vulnerabili, dando diciamo la preferenza alle donne e agli uomini, alle donne e ai bambini che accogliamo nel centro, il tempo che loro siano evacuati da Dirku. Perché bisogna ricordare che Dirku è una zona più o meno militare, e per raggiungere, che si trova a 750 km da Agadez centro, quindi è in deserto, in pieno deserto. È una piccola comune di diciamo 4.000 persone, e si figura che quando arrivano ogni giorno 2.000 persone su una popolazione di 4.000, la pressione anche che fa sulle comunità locali e le capacità diciamo anche di accogliere tutta questa gente. Dirku, come Lampedusa, non vi fa pensare questi luoghi avamposti, che siano nel mare, nel deserto, c'è una somiglianza impressionante in queste storie. In tutto questo, naturalmente, Dirku è Niger, è sud del Sahara e non la porta meridionale dell'Europa. Ma insomma, questa è la prima parte del racconto di Abibatou Wan. Per avere un quadro complessivo abbiamo chiesto una mano invece a Flavio Di Giacomo, cui diamo il benvenuto. Buonasera Flavio. Buonasera. Dunque, IOM in Italia, l'Organizzazione Mondiale della Migrazione, ecco, qual è il quadro complessivo di questa fuga, abbiamo detto, di 1 milione di persone? Come ha detto lei, appunto, si tratta di ormai quasi 1 milione di persone. Siamo arrivati ieri a 960.000 persone. Credo che nei prossimi 2-3 giorni purtroppo raggiungeremo la quota di 1 milione di persone, quindi si è trattato veramente di una fuga di portata veramente considerevole, cominciata dal mese di fine febbraio. Bisogna dire che è stato molto importante il ruolo che è stato svolto dai paesi confinanti, in particolare all'inizio dalla Tunisia e dall'Egitto, che hanno tenuto aperti i confini, che è una cosa molto importante quando ci sono fughe da situazioni di conflitto, perché se si chiudono i confini chiaramente si crea un'emergenza umanitaria incontrollabile. E non è sempre così, basta ricordare il terremoto da Haiti, ma insomma gli esempi sono molteplici. Esattamente, quindi quello è stato il primo dato importante. Il secondo dato importante è che comunque è stata data una grossa mano sia da parte dell'Egitto e soprattutto dalla Tunisia, devo dire, a queste persone che fuggivano dalla situazione di conflitto in Libia, soprattutto migranti. All'inizio sono stati, anzi essenzialmente, migranti che fuggivano dalla Libia. Ricordiamoci che secondo le stime sia dell'OIM ma anche di altre organizzazioni si parla di circa 1,5 milioni di migranti che vivevano in Libia e lavoravano in Libia, molti dei quali consideravano la Libia come un paese di destinazione, non di transito. Quindi tutte persone che l'OIM ha aiutato poi, o comunque molte di queste persone l'OIM e altre organizzazioni sono state aiutate a tornare a casa tramite evacuazioni. L'OIM ha assistito circa 150.000 persone nel rientrare nei loro paesi di origine in questi 2-3 mesi, altre persone sono state aiutate direttamente dai loro governi, insomma. Però l'emergenza resta tale perché ci sono ancora alcune migliaia di persone bloccate ai confini, c'è un campo che è ormai abbastanza conosciuto, il campo di Shusha in Tunisia, dove ci sono parecchie migliaia di persone ancora, e visto che noi abbiamo chiesto come OIM fondi agli stati, alla comunità internazionale, e questi fondi sono arrivati, però purtroppo le persone sono così tante che il ritmo dell'evacuazione nelle ultime settimane è un po' diminuito, proprio perché appunto c'è bisogno di parecchi soldi per poter evacuare le persone, quindi ci sono persone bloccate che a questo momento non possono né tornare nei loro paesi d'origine né tornare in Libia. Insomma, persone letteralmente bloccate. La Tunisia, in una battuta, Flavio Di Giacomo, è il paese che subisce assieme all'Egitto l'impatto maggiore di questa crisi. Esattamente, ha subito l'impatto maggiore di questa crisi, però è stato anche caratterizzato da un forte spirito di solidarietà, quindi hanno appunto accolto, le dico subito la cifra, semplicemente per la Tunisia ad esempio, stiamo parlando di 492.000 persone che sono arrivate in Tunisia dall'inizio di febbraio, quindi c'è stata anche una grande collaborazione da parte delle autorità tunisine e della gente tunisina. Bisogna calcolare che la Tunisia appunto usciva, anzi si trova ancora in un momento di instabilità politica abbastanza importante, quindi questo impegno va sottolineato, è stato un impegno molto molto molto importante. Assolutamente, un anno davvero complicato di trasformazioni e di trasformazioni interne e dell'impatto della crisi del grande paese vicino che ha 6 milioni di abitanti e 1,5 milioni di lavoratori stranieri. Grazie a Flavio Di Giacomo del IOM Roma. Adesso noi sentiamo insieme come vanno le cose sulle strade italiane, poi invece torniamo sulle strade africane, sulle strade da cui parte verso sud la fuga, una parte importante della fuga appunto di chi in questi mesi è costretto a lasciare la Libia. 30 minuti in cronaca. Riepilogo dei numeri, sono 38.000 gli migranti fuggiaschi arrivati a Lampedusa, 14.000 dei quali dalla Libia, 490.000 invece quelli arrivati in Tunisia, e mi riferisco allo stesso periodo di tempo, quindi dalla fine di febbraio ad oggi, sono 76.000 quelli che hanno raggiunto il Niger, che lo ricordo, il Niger è nella classifica del benessere delle Nazioni Unite al terzultimo posto su 179 paesi del mondo, l'Italia al 23esimo. E allora noi continuiamo il racconto di quello che sta accadendo in Niger. Vi propongo una seconda parte dell'intervista che abbiamo realizzato a Niamey con Habibatou Wane, responsabile senegalese dell'Organizzazione Mondiale dei Migranti. Le condizioni di trasporto sono davvero difficili, arrivano centinaia su un camion con pochissimo bagagli, tutto quello che avevano sono stati obbligati da partire, vengono davvero in veri stati veramente difficili. Ecco, ecco signora Wane, Dirku oggi, lei ha detto c'è stato il picco della crisi nei mesi di marzo, di aprile, ecco oggi che siamo a giugno, qual è la situazione? Quindi diciamo arrivano, però è calato, quindi abbiamo una media di 200-150 al giorno che arrivano. Quindi continuano gli arrivi. Ecco, nel frattempo, sì, come ha detto fin dall'inizio, il Niger è un paese di transito. Comunque con l'aiuto dell'organizzazione e della comunità umanitaria cerchiamo di aiutare il paese a gestire la crisi. Quindi quelli che transitano, anche dall'inizio bisogna dire che il governo del Niger ha aperto la sua frontiera, quindi anche verso i suoi nazionali che altri stranieri. Quindi per gli stranieri che sono della sottoregione, l'OIM li prende in cura, quindi diciamo che quando arrivano a Dirku, noi fino a Niamey li prendiamo in carico, a Niamey li mettiamo un luogo per l'accomodazione, li aiutiamo a raggiungere anche il loro paese. Ecco. Ora il problema che si pone alle autorità, che ha lanciato un appello, è che questi migranti, bisogna dire che costituivano mandavano dei soldi, aiutavano le loro famiglie, e la più maggior parte vengono da regioni che diciamo delle regioni vulnerabili. Come sa, in Niger c'è un problema di crisi alimentare, quindi questo ora è una grande preoccupazione. Il ritorno di queste persone stanno anche creando delle pressioni, stanno ancora in una situazione più vulnerabile. Chi rientra cosa fa? Ora il problema che si pone a loro, cosa devono fare, come fanno per mangiare, come fare per trovare lavoro, come detto tanto, sono la maggior parte. Noi abbiamo fatto un esercizio per fare la cartografia delle zone di ritorno, e queste zone di ritorno sono delle zone che di solito sono delle zone vulnerabili alla crisi alimentare. Quindi ci sono state delle missioni all'interno per vedere, per valutare un po' la situazione. È una situazione drammatica, questi ritornati che già le loro famiglie dipendevano da loro, ora sono ritornati senza niente. Quindi anche questo è un problema, e per questo il governo ha chiesto un appello alla comunità internazionale, se possiamo fare qualcosa. C'è stato un piano di urgenza che si tratta di dare la distribuzione gratuita di alimentazione, di dare le seme così possono lavorare la terza, perché andiamo verso la stagione delle piogge. C'è anche una distribuzione di betali, cioè di animali. Di animali? Di animali. Quindi questi sono i piani di urgenza. Poi dopo ora dobbiamo riflettere su una prospettiva lungo, medio-lungo termine, cioè la reinserzione socio-economica di questo ritornare insieme alle loro famiglie. Quindi queste sono davvero le prospettive da cui noi andiamo, cerchiamo di andare per fissare, aiutare questa gente che sono ritornati. Eccoci quasi in conclusione, prima però vorrei introdurre un'ultima ospite, una collega, Anna Iannello, che è una giornalista. Buonasera Anna. Salve. Dunque, Anna Iannello è una giornalista, ma segue anche un progetto che riguarda una zona, un dipartimento che si chiama Abalak nel Niger. Allora le chiedo di spiegarci rapidamente di che cosa si tratta, perché, come dire, è un ottimo esempio di quello che anche si può fare in una vicenda di questo tipo. Sì, io faccio parte di un'associazione italiana che si chiama Amici della Zawak. La Zawak è una vasta regione più o meno a metà del Niger, è una zona a grande vocazione agricola, pastorale, soprattutto di allevamento. Noi lavoriamo in collaborazione con una ONG locale, che è un'associazione che raggruppa appunto dei giovani allevatori di bestiame. E stiamo cercando in queste settimane di portare loro un aiuto per l'emergenza che si è creata con i rimpatri dal Niger. Ecco, dunque, a questo proposito ho visto un dato che mi avete segnalato: ad Abalak un rimpatriato ogni 17 abitanti, è enorme. È una cifra molto, molto pesante, perché praticamente ogni nucleo familiare aveva una persona che era andata a lavorare in Libia già dagli anni 80, dagli anni 90, e questa persona era molto importante per le rimesse che arrivavano nel comune. E per un'altra cifra, cioè ogni settimana 50 milioni di franchi CFA, che è la moneta locale ed equivale a 76.000 euro, rientravano nelle casse familiari del dipartimento di Abalak. E questo era un grandissimo aiuto naturalmente all'economia del dipartimento, all'economia delle famiglie. Vedendo mancare questo grandissimo introito, si crea il problema del sostentamento anche alimentare. Il Niger è uno stato sempre prennemente in crisi di insicurezza alimentare. E per quest'anno il presidente, che è stato appena eletto il 12 marzo, Mamadou Issoufou, ha già annunciato con un appello televisivo che si andrà incontro a un altro periodo di carestia. E quindi c'è molto allarme, perché oltre ai problemi soliti della carestia, in più si aggiunge il problema dei rimpatri. E la nostra organizzazione partner ci ha infatti segnalato i casi di un centinaio di famiglie che vivono in 7 villaggi del dipartimento di Abalak, che ripeto è un dipartimento che si trova nella regione di Tawa, più o meno a metà strada fra la capitale Niamey e, diciamo, quella che è ritenuta la capitale del nord, Agadez. Ci ha segnalato appunto un centinaio di nuclei familiari che hanno bisogno di aiuto, perché vivono in situazioni di gravissima emergenza. E allora noi abbiamo presentato anche all'Ufficio di Cooperazione Internazionale del Comune di Milano, abbiamo presentato un progetto di aiuto a queste famiglie. Insomma, un tentativo di sostenere in una fase di crisi in cui si sommano alle difficoltà legate al territorio, l'effetto, questo lato B della Libia di cui abbiamo parlato questa sera e che per noi sostanzialmente non esiste, concentrati come siamo e direi giustamente a ciò che accade al nord. Allora vi ricordo Amici Azawak Onlus, lo trovate anche sul web, Azawak è scritto con la W e la K in conclusione. Ringrazio Anna Iannello per questo contributo. Ricordo a tutti voi che queste informazioni le ritrovate anche sul sito di Radio 24, radio24.it, così per quanto riguarda i dettagli e per saperne di più. Ringrazio naturalmente Paolo Corleoni in regia e vi lascio al resto della programmazione di questo fine settimana. Il nostro appuntamento naturalmente per sabato prossimo.